fai, Marcolino? Se hai visto un segnale che andava e veniva, tic, una portantina tic, ritmica, quella è la funzione rosmetro dell'apparecchio, dell'apparato. E stavo vedendo tu uno, proprio uno sta uno. Un K. Oh, sto sentendo un vento qua, sente si sta mettendo buriana un po', e c'era il mezzo coperto. Lo so, io sto aspettando a mio nipote qua che mi deve pagare l'affitto, e gli ho affittato la casa in campagna, e mia moglie è andata dal medico a fargli vedere la lettera della chirurga, così domani devo fare quell'esame, l'angioattacchi devo fare. Domani sera alle 4. Ha detto che viene Franco a portarmi, così sbrighiamo delle commissioni dopo che abbiamo fatto questa cosa qui. Sono ancora caldato, che vabbè, abbiamo mangiato quante 3 quarti d'ora fa, mezz'ora fa, però sono ancora, il sangue va tutto allo stomaco e sono ancora un po' suonato, e c'è caldo tanto per cambiare. Va bene, dopo mi tomo dal computer, vediamo se riesco a concludere, credo che non ho concluso l'altro giorno. Ho detto, sto perdendo lo smalto, non ho più un'inventiva che avevo prima, fantasia. Altrettanto ti dico, stamattina è venuto Franco a prendersi il caffè e c'era un polacco, c'era nella banda di su, e l'ho collegato di brutto davanti a Franco. Sì, è fattibilissimo, tanto non fa la propagazione tutta la magia, capito? Ma so avere i watt giusti, ma nemmeno tantissimi, anche con 2 watt, se ti ricordi per esempio quel giorno che c'era propagazione, per esempio Giulia aveva 2 watt e l'avevano sentito, non so se fosse Alta Italia o Sud Italia, e lo sentivano come niente, capito? Se c'è più watt può aiutare a uscire dal QRM, a uscire dalle stazioni multiple che parlano su un canale, già tornano utile pochi, mi bastano anche un centinaio in SSB e vai di lusso. E infatti ero in SSB, così mi ha visto come parlavo l'inglese, si è spaventato. Eia. Poi sì, tanto guarda, per i collegamenti è semplice, bastano le solite frasi fatte, certo se vuoi fare una conversazione più ampia, allora lì mi perdo anch'io. Sì, no, già è tranquilla lassù, già è con le mie condizioni di lavoro, anche lui c'aveva la Game Master, la radio che era, i watt che stavo usando. E insomma, l'ho collegato così al volo. Ma polacco dov'era? Sulle frequenze normali? Ah vabbè, me l'hai già detto, no, ok. C'era il mondo. Acceso così, tac, davanti a lui, e c'era il mondo sul canale di chiamata. Lui si è spostato, questo della Polonia, e io l'ho seguito, perché ti dicono di andare in tale canale, se li vuoi collegare, via. Ehi, no, sempre che te l'ho chiesto, mi è venuto da chiedere se erano i canali normali. Italiani manco l'ombra. Sarebbero su 10, sarebbero 26. 07070, non hanno il 5 finale, capito? E modulano FM più che altro. Poi vabbè, penso che anche loro si siano ampliati come regolamentazione, o anche se non si sono ampliati, tutti vanno sulla tripla 5, legale o meno, e si fanno i DX, tanto non stai ammazzando nessuno. E infatti c'era il mondo stamattina. Poi, qua sento Buliana, a seconda di come va devo legare la tenda. E infatti. C'era anche lui, Tenerife, stava chiamando a squarciagola questo qui delle Canarie. E quello non l'ho manco collegato. Non ne avevo voglia. L'ho fatto solo quando c'era Franco che ha chiamato quello lì, l'ho seguito e l'ho collegato. Mi ricordo che c'è una lista, vabbè, c'è sempre la località, no? Dice, in tutto il mondo ci sono quei numeri per identificare la zona del chiamante, no? Per le cose amatoriali, anche CB. E mi ricordo che c'erano dei paesi rarissimi da collegare, rarissimi anche perché magari non nessuno è residente, tipo certe isole, capito? Non avendo magari residenti o non essendoci radiatori, devi beccare quello che fa magari la spedizione, che fa i DX da lì, sono molto ambiti, capito? Il problema è che quando chiamano questi paesi rarissimi da trovare, fai una chiamata e ti rispondono in 50, non capisci nulla. Quello già lo so. A noi mi dispiace demoralizzarli, perché tutti si vogliono prendere la patente, però se dopo non sai parlare inglese come fai, raggiudito, ci vogliono molti soldi, perché devi comprare le apparecchiature, devi avere il posto dove mettere le antenne, perché se tu non hai antenne non fai nulla, raggiudito. In piccolo uno ogni tanto dalla macchina si può pensare, farsi i collegamenti dalla macchina e li fai, il resto lo fa la propagazione. Certo, dalla macchina non riuscirai a fare dei collegamenti un po' limitati con un apparecchio veicolare tipo 857, quelli là, quindi un centinaio di watt in SSB, c'era qualcosa la fai, poi il resto te l'ho detto, la magia la fa la propagazione. Magari non fare il giro del mondo come DX dalla macchina, però si può iniziare da quello, ovvero un'antenna multibanda, anche se io so che sono delle cagate, però cioè, se funziona la veicolare che alza 1,5 metri, funzionerà anche una CP6 messa sul tetto, l'importante è che sia in alto l'antenna, poi. Sì, se no uno si fa un dipolo, per i 40 metri bastano 5 metri a una parte e 5 metri all'altra, con le cariche, e stai andando. C'è il progetto qua, gliel'ho dato a Franco per farsi l'antenna. Sì, guarda, se Franco vuol pigliare la patente, digli che una volta che impara quelle quattro frasi in croce per fare di DX in inglese, è fatta, è fatta. Tanto si dà sempre, devi dire dove sei, cosa stai usando al limite, il rapporto di segnale, basta, non devi fare non devi fare una conferenza, capito? Ehi, già lo so, però quello non ne capisce niente, Salvatore lo stesso, cosa, non sa fare da manco l'italiano, non ce lo dà, figurati. E a me mi dispiace anche demoralizzarli, però gli sto dicendo la verità, se non hai antenna non fai nulla, e ci vuole posto per le antenne, devi avere un tetto insomma che possa avere, che tu possa mettere un po' di antenne, se no cosa fai? Niente, oltre alle radio che costano un occhio della testa quelle che stanno usando adesso. Ma quali costano, le radio o le antenne? Tutto, dalle radio alle antenne, tutto costa. quelle antenne natali bastano un dipolo, come si chiama, quella pure rovesciata, un dipolo multibanda, che ne so, 10, 20, 40, al limite 80 se proprio c'è spazio, lo metti a, sì, pure rovesciata, ci sono tanti modi di sistemarli, qualcosa la fai, insomma. E vabbè, poi per la VU, cioè per la VU, vabbè, non è che parli solo in FM, in locale, lì c'è l'SSB, c'è le modi digitali, anche lì tantissime cose da sperimentare, da fare. Dipende, magari a lui piace più l'HF, come il baracchino, no? I DX, così, in SSB. Non lo so cosa gli piace, però, boh, cosa vuoi che ti dica? Purtroppo ci sono tante difficoltà, lì non è tanto facile. Sì, lo so, ci sono tante cose da sperimentare, ma devi spendere tanti soldi per gli apparecchi. Adesso stanno andando in VU, come stai dicendo tu, stanno andando tutti in digitale, non senti più a nessuno in analogico, capito? Oh, pensa che il mio ricevitore è spento da... quant'è? Qualche settimana che è spento, tutto impolverato, come quello tuo, ce l'ho qua a fianco. E quindi non manco quello sto usando. Poi io della Uniden ho anche quello portatile che ti avevo detto, anche quello impolverato, però quello è in camera mia, capito? Bello, batterie scariche, impolverato, eccetera. Anche io ne ho ricevitori, ce l'ho HF, ce l'ho come quello tuo, insomma. Però non ne sto usando, cosa li già fare, mi solo il baracchino e boh. Tanto non ho piazzato nessun tipo di antenna, solo questa di qua e boh, perché sono nel mirino e boh, non c'è nulla da fare. Già dice che sto disturbando, torna quello là, ma io me ne sbatto, adesso parlo e boh. E non si deve presentare qua, che sennò ti posso fare il volo dalle scale. Come sei violento. Ah, così, di nuovo, ma lui è, dimmi, se è tonto, non so se capisce l'italiano, se... Boh. Ma l'antenna, se la nuova, è buona, è funzionante, allora se becca ancora disturbi, che ne so, sarà il ricevitore del televisore che non serve, non so cosa dirti. Io te l'ho detto, io non ci credevo, io ho cercato in tutti i modi di disturbare la TV di casa per fare un test, proprio scorrendo i canali, niente, non c'è modo di disturbare il mio televisore, quindi come vedi, lì c'è qualche problema di fondo da parte di terzi. Sì, si deve comprare un bel televisore, si deve attaccare come si deve all'antenna che gli ho dato io, TV nuova, quella vecchia che avevo io, mi è nuova, quella multibanda, praticamente, con un'antenna solo vedi tutto, e disturbi non ne prendi, però devi avere anche un televisore, quello manco un televisore ha, come si deve, c'ha uno di quei decoder che di 15 anni fa, più ha la televisione tutta rotta, che non... manco i colori escono, sta messa male, e pretende di vedere, ma vada a fanguarla, e si piazza l'antenna come si deve, e si compri un televisore, cosa vuole, che glielo compri io, se viene qua, oppure mi fa qualche dispetto, lo sto denunciando, non sono d'altro, figurati. Sì, aspetta che sto leggendo una notizia di oggi, porca miseria, Sassari, bimbo appena nato abbandonato in strada, un passante lo salva, a Osilo, col cordone ombelicale ancora attaccato, capito, la tipa l'ha partorito, non si sa, vediamo, non so se ne parli, e l'ha mollato sotto una macchina, Ui, a cosa stiamo arrivando? Di tutti i colori se ne sentono, senza le guerre che ci sono. Ma anche quello ci vuole. Io te l'appoggio. Io te l'appoggio, ma non ti rindo. Come stai? Così così. A dove sto? Perché altro ci può, una specie di mal di testa strano, cioè. Siamo tutti un po' nella stessa barca mia, Tony. Io sto andando avanti un po' con antinfiammatori perché c'è un pochino di fastidio alle parti basse, prostata lì e dintorni, deve essere un po' infiammata, però con antinfiammatori dovrei tenerla sotto controllo. E Natalina, c'è il suo, insomma, tutti, quando si supera una certa età gli acciacchi si moltiplicano, capito? Vai Natalina. Allora, siamo da rottamare, siamo. Adesso Antonella mi ha detto che sta diventando finocchio, pure, boh. Magari, così mi ha preparato un negozio di parrucchiere. Santa me. Boh, boh. Transgender, adesso è più transgender, è meglio ancora, non sei né maschio né femmina. Sì, come né carne né pesce, da. Lo sai comunque, Natali, che nelle serie TV, vabbè, si sapeva che i gay ce l'hanno sdoganati, adesso anche questi personaggi un po' mezzi transgender ce li stanno sdoganando. E l'altro giorno su Grey's Anatomy, mi pare fosse la 18ª stagione o roba del genere, hanno fatto vedere il figlio di una di quelle dottoresse, piccolo, no? Boh, ha avuto 5 anni, che ne so. Erano ai giardini, così facevano giocare i figli, e uno di questi, un maschietto, aveva il tutù, cioè aveva i pantaloni ma aveva anche il tutù. E la nonna, quando l'ha visto, dice, che cosa ha addosso? Dice, il tutù. E dice, perché ha un tutù? Perché a lui piace così. Associato, piano piano arriviamo, la lobby di questi qua strani sta cercando di sdoganare anche questa nuova moda, perché è una moda, secondo me, dei bambini transgender, cioè da piccoli li mettono delle fesserie in testa, che possono scegliere il sesso, possono scegliere cosa essere, maschio, femmina, mezzo e mezzo, e tramite le serie TV che sono guardate da tutti, anche dai giovani, stanno creando confusione, a dir poco, confusione nella testa dei bambini piccoli. Qualcuno ha detto che nelle scuole montessoriane, non so se qualcuno ha visto i bambini e le bambine che si dipingevano le unghie a vicenda. Non ho capito cosa vogliono arrivare. Ti ho detto, diventeremo tutti tipo mezzi e mezzi, capito? Come diceva Antonio Bombolo, diventeremo tutti come Malgioglio, come Platinette. E lui diceva, ma non ti innandi. Io ho grido. Quel Mattano, per esempio, quello non si vede, sembra un uomo normale, quel giornalista che c'è a Rai 1, quello lì cazzo vive con un uomo perché è gay, cazzo, boh, non vedevo usano, no, dice la televisione, dice che c'è il compagno. E vabbè, è quello, vabbè, quello l'abbiamo superato, però finché sono magari persone adulte che decidono cosa fare della propria vita, ma quando vai a mettere in testa fesserie ai piccoli che ti puoi vestire da donna se vuoi, ti puoi mettere la parrucca, truccare, ma non esiste, non esiste. Infatti. Anzi, si è sposato, l'ha detto lui, si è sposato civilmente con un uomo. Anzi, e quello non si vede, cazzo, non si vede perché sembra un normalissimo, un uomo normale, caspettina. Quel Platinette e quel coso già si vedi, quel Malgioglio, ma questo Mattano non si vede. È un bell'uomo pure volendo, tutti dall'altra sponda sono, sia donne che uomini in questo cavolo della televisione. Non c'è nessuno sano. E il futuro che avanza, vero Antonetto? Allora, tra poco diventiamo tutti i maroni, cazzo. arriviamo così che rimaniamo senza soldi per dare, dagli te che da battere. L'altra volta mi è arrivato un messaggio di una tipa, mi ha chiesto l'amicizia, ha cominciato a... mi ha messo, dice sono un escort, mi ha scritto, mi fa piacere, io sono un tecnico. Mi ha fatto, se vuoi venire, mi ha messo i prezzi. 100, 120, poi 500, 1000, hai detto cazzo. Ascolta, fa una cosa, ha detto, ti conviene prenderti qualcuno che c'è qualche negozio. Belle notizie, quelli si stanno ammazzando, quelli Palestina, Israele. Mamma mia, sono la stessa, poi la stessa etnia alla fine, ma contenti loro. Comunque questi islamici natali bisogna stare attenti, hanno dato il coso, il bando, come dire, fate più danno possibile in tutto il mondo, capito? Quello già sto uscendo col coltello in tasca io, per sicurezza, che la volta fammi filtrare io prima filtra lui e i coglioni, proprio di là. Cavolo, intanto la madre di quel neonato mia Osilo, indagata per tentato omicidio, minchia. Abbandono di minore più che altro, non è che sia tentato omicidio, è abbandono di minore. A me sai che io ci sto stare, hanno usato lineare, dato 100 watt, mi pare che so questo, se è successo qualche cosa. C'è lo Smith che sale a 9.30, esce qua, dammi un'occhiata per me. Dato lo Smith, aspettatela. Poi cosa sto leggendo? Sassari, pedone investito da un'auto. Grave. L'ennesimo pedone investito a Sassari, minchia. Scusate il termine, ma sta diventando una strage, amico, con questi investimenti. Ce n'è gente amata alla guida, L'altro giorno c'era, ho messo la freccia per superare la colonna delle macchine. E questo è uscito di botto con questo SUV dalla colonna, è uscito senza mettere freccia a niente. Per fortuna non ero vicinissimo, ma rischiavo di farmi cadere senza freccia, nulla. Poi ha girato a sinistra in fretta correndo come un matto con questi SUV, sembrano dei carri armati. Intanto ce n'è qualcuno che cammina per i fatti suoi. Riesce a bere? No, ma perché se no bere non uso sto coso. Il Connex 4000, quello famoso, ce l'avevo io giù da Giovanna, ce l'avevo, l'ho salito sull'altro giorno con l'alimentatore, che preso anche a lo smetto perché è passato il cerecino e poi le potenziamo, ogni tanto le lampe che non lo uso. Va bene adesso, devo solo regolare lo Smith e in trasmissione. Ma Giovanna non modula, cioè ce l'ha ma non entra più in radio, anche perché non c'è un cane quasi. E io adesso uno di questi giorni ce l'attacco, in macchina lì, mentre tanto c'è la magnetica, almeno la uso un po', ce l'ho a casa sua, l'avevo comprato due, una Fabio Master, quella lunga, e io ho comprato la PC1000, quella modello corta. Metto da qua di sigari, già l'ho trovato, così lo provo dalla macchina, quando siamo a fare la spesa. Mi si vede? Così mi sembra che facile, ecco così, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Come l'ecco? Cosa hai detto? Così mi sembra detto che c'è l'ecco, non mi ricordo più adesso com'era, perché era un bel che non lo uso. Poi vabbè, ci ho messo la mascherina del 2009, quindi eccoci adesso. No. Passagli ci recipro in occhio. Era parecchio tempo fermo. Quello aveva un eco veloce, no? Fisso. Era una ripetizione veloce, quasi un riverbero, no? Sì, sì. No, ma già c'ho l'Echo Master di qua, l'ho sistemato oggi. Me l'ha regalato Tino. L'ho tutto... Gli ho collegato tutti i fili che erano staccati, eccetera, eccetera, perché l'unica cosa del LED, vabbè, non è, il LED gli ho messo, ma gli ho messo più piccolo. Devo cercare un affare in plastica da metterli in modo da bloccare il LED. So già le poco la colla e vabbè, lo stesso. Adesso ne ho messo uno fine. Poi già gli cerco uno di quelli grossi di LED, già lo trovo, dovrei averlo in qualche cosa, in qualche posto, in qualche stato, ma senz'altro. Marco lì. Sì, io. Va bene, sto facendo la doccia, riprendo subito. Sì, io. Fai con calma, dai, tanto io adesso... 5:30, devo fare quella roba al computer, vediamo se accesce. Ok. Non mi sento molto in forma nemmeno. E quindi saluto anche Antonello. No, ci sentiamo. Ok, ciao. E ciao, ciao. Ci sentiamo alle prossime. Là, ciao Antonello, se ci sei. E io, ciao, ci sentiamo alle prossime. Sempre quando parli forte o fischi, proprio è di fondo, leggero. Ok, ciao di nuovo Antonio, ciao. E per non dare fastidio l'ho messo così, leggo. Capito? Sono cosa alerta poi. Non se ne ha preso, ok, non esce più questo salerta con questa macchina, esce. Che roba strana. Va bene, ok. Oh. avanti, chi è che mi chiama? Avanti, chi è che mi chiama? CQ canale 10. CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Arrivano bene qua. Oh, andate. comincia a vedere, va, adesso va bene, no? Sì. Se tu lo metti vicino alla radio per fare rientro. Cioè. Anche le mesi 60 anni lo fa così. Se non lontani non fa più niente, se non fa rumore di alternato. Ma secondo me sono le cuffie. No, perché le cuffie non le stavo usando e lo fa lo stesso. Un problema diverso, deve essere questione di massa. È possibile, sì. Come radio com'è? Va bene? Ora, 1, 2, 3. Perfetta. Che microfono è? L'MB+4. Va bene, ma quello tutto camuffato come l'hai fatto tu? Ehi, è sempre questo. Io ho il +4 lo stesso. Lo sto usando adesso in questo momento. Come va? Di russo va bene. E il segnale con questa antenna va buono, è meglio di quella là. Ehi, sempre fa una scala, riguardo anche con l'altra, però siamo vicini fra e quella la ragione, non qui dare un segnale perfetto se siamo così vicini. Ehi, ma quella là era tutta marcia, tutta piena d'acqua. Non serve a niente quell'antenna. E vabbè, se quando ti è servita già l'hai usata, dai. Magari vorrebbe. Fatta meglio, nel senso isolata meglio, boh. Cioè ti sto dicendo che c'aveva il filo della carica, lascia perdere. Siamo al cito. Fine. Sì, quello lo so perché l'ho vista smontata con l'antenna su internet. Prima di prenderla lo volevo comprare. Perché ho detto guardate che ho comprato la riserva. In caso là tra i problemi li metto quelli e via, perché ho visto che usciva bene la te. Sì, vabbè, però non serve a niente come te, è fatta male, capito. Allora questa qua ho provato le stazionarie, neanche si muove. Ehi Giorgio, anche il QRM non è simile. Con l'antenna è sorda, qua nemmeno li piglia. No, non le prendono. No, lo so, e dopo da io prima non lo so. Era zero di stazionare, non si muove l'immacolato. Vanno bene, dai. Sì, bene vanno bene. Il problema mio è che si è troncata due volte, quello è il problema mio. Mi sono stufato, per quello te l'ho dato, perché sennò me l'avrei aggiustata anch'io. Ma mi stava scorciando, è inutile che racconti, la vai, ti si faccia ancora, te la saluto. E allora ho detto, la prendo nuova direttamente, intanto anche se non ci avevamo anche un anno con l'antenna. Già, sono antenne, non vedi riccate queste qua, capito? No, io l'ho riportata bene, speriamo che non si spezza, se si spezza ce la butto. Se no li metti quei tubi che sono invece da un apparecchio, cioè che quelli non si trocca. Ah, io ho capito, quei tubi PVC. Che pesa poco da lui, ui, è pesante, mi. Capito? No, non è pesante, dai, è leggera con l'antenna. E io per piazzarla, a metterla su, mi ha dato un po' di problemi, perché è flette, capito? Ma non è che sia pesante, è leggera. Luca l'ha messa subito nel palo, cioè, me l'ha piazzata Luca, me. L'ha messa subito sul palo. Ho anche filmati, di quando l'ha piazzata, avevo fatto, Claudio mi ha detto, la Jägermeister, non so che cosa, l'abbiamo messa anche su film. Stavo dicendo, vabbè, perché se il tubo è basso ti viene bene, siccome che io ero un metro già, col telescopico, e quindi mi ha dato un po' di problemi a inserirla, capito? Non è che pesa, è il problema che flette. Come dice che stavamo piazzando in campagna tua, come ha fuori tutto si è truccato. Bah. E ho fatto una roba, gli sciantene su qualche anno dai. Tanto guarda, se ne sarebbero tornati il primo momento di sentire la parata, perché lui ce l'aveva riparata lì in basso, ma tu la stavi mettendo su te. Io ce l'ho per campagna l'altra, capito, a piazzare, che l'ho sistemata. Non l'hai trovato io? Ehi, c'ho quella, capito. Ma bisogna non avrei quante stazionarie ti dà con l'antenna, perché a me mi dava meno stazionarie. Ah, ti dava stazionarie perché era piena d'acqua nella bobina, io ci trovavo tutta la bobina io, capito, adesso va bene. Ma di quale stai parlando? Di quella che mi ha dato tu lì? Quella lì c'ho, sì. E perché non la piazzi allora? Per l'estate, se te ne vai lì. E adesso vedo già. Tanto il tubo ce l'hai, non è tolto. Oh, c'è sempre quel tubo, ogni tubo qua. Ma anche tutto verniciato, peccato, cazzo. E poi il tubo d'acqua, ti ricordi quanto era alta? Era l'una. In effetti, cazzo, era un po' alta. Ed era lunga anche l'antenna. Fatica alzarla, ragazzi. Sì, dopo la battuta. Boh, ma dite, sa cosa? Si è piegata, trac, truncata. Boh. Era fatta di cacciavoli in antenna, fra. E ce la tuvisava. Era fatta di cartone, cazzo. Sotto non era forte come era stata fatta, capito? Sotto era un po' debole, si è spezzata sotto. Ma secondo me era già rotta, è stata aggiustata. Dopo tutta la fatica che abbiamo fatto, cazzo, verniciato tu mi facevi. Aspetta, mi è rimasta in mano, allucinante, che... per carità. Vabbè. Sono inconvenienti. Oi, oi. Babbo, da. Già va bene, già va bene. Ti ricordi, non ci ricordi. Vabbè, già. Cava, cava. Allora, tutta la fatica che avevo fatto, con un gambe, caricato. Sono così. Mi ha travaglio, che... poi per niente. E infatti, fosse stato almeno... che so conto, ma... adesso si trocca in due. Si c'è per una cosa. È che era un bel lunga, e la base non era da andare a parlare quale. La base era fatta male, era legata con coso, cazzo. Non l'ho preso in mano, sei paccata in due. Io ho cercato di tirarla ancora più su, però come l'ho tirata su si è spezzata, non ce l'ha fatta la lunghezza con il fatto che abbia flettuto, non ce l'ha fatta, si è truccata sotto. Sì, infatti. A te, un attalino, ci si ricatta. Tirantene, basta comparare direttamente, basta, già sai, ma... infatti. Attento, Bimbo Mix. Attento, Emanuele, cambio. Bimbo Mix. Ah, mi ascolti, ah. Sì, a voi, buonasera a tutti. Ciao, Emanuele. Buonasera. Ciao, Emanuele, buonasera. Vedi che già ci ascolta, già. Sì, oggi si sente meglio. L'altro giorno proprio lo sentivo basso, basso, basso. Sì, il quaderno e poi c'è una radio del capo. Che macchina stai usando? Niente, che come c'aveva Franco. Già vanno bene, non sono un granché. Ma scusa, non c'hai la stazione base tu? Ho la stazionina, tutte e due. Ma vendute te, sì. Era dura, che cosa ho regalato? Era bello quel coso, quel presidente, che? Tutte e due le ho vendute. E gli altri due cosa c'hanno? Gli altri due non lo so, sono da guardare. Quelli lì 50 euro le ho tutte e due, ma non so un caso. Chico! Che be. Chico! Vabbè, tu! Vabbè, buonasera a tutti. Ciao Luca, buonasera. Poi Lucrezia. Monolastico. Ciao, ciao Nani, grazie, grazie a tutti, grazie, grazie. Allora, ma ti sento male, come vai? A me? A 5. Un baracchino direi dei cinesi. Ah, segnale c'è forte, ma la radio che è un po', cioè, ti porti un po' di coso dietro, un po' di... QRM sotto. Ma anche l'alimentatore che è sotto alimentato. Figa, se non entrate nei cinesi questa è 20 euro. Ha giocato uno da un po' come. Ti ho messo le bananine, va bello, è uscito bello. Col tastino accensione sopra. Poi gli ho messo il tastino per la vento. Fai 35 euro, 40 sei riuscito, ma un 50 euro. Ma avevo dei dinami, adesso è speso il suo per fare tutta la macchina, 1500 euro. Adesso la mia già sta andando bene, provvisoriamente. Ogni tanto fa problemino, ma già sta andando bene. niente, dai, la tengo ancora per un'altra stagione estiva, poi vediamo un po'. Se ho soldi di marca, se no continuo con quella. E se ho preso la curva Marcetto, avanti già. Sì, se va bene, scusa, perché ce la devo buttare. Se fai la politica che devi fare, ma qui lo vedi un bene anno. 156.000 mi sa. 156.000, easy, guardi. Vediamo che sia. Non sono 80, cazzo, la botta di motore va via 31.000 quasi. Ma che macchina è? Ma appunto, benzina. Appunto, se fate appunto, c'è 206, quasi 300.000 km, figurati la dura si fa un po' di chilometri. Ma poi 100.000 km la macchina e comincia a dare problemi. Ma è stata la cinque distribuzione, la frizione, già capito, questi lavori sono stati fatti, così mi ha detto, ma la metto, ma la ti dico. Sono tutte cazzate, ho già, con la macchina li fai, italiana come si deve, cinghia, la macchina di anche 400-500.000 km li fai. Però non mi dici tu, l'usura dei pezzi c'è, anche se tu li fai tagliando, l'usura dei pezzi c'è, fasce, pistoni, cilindri, tutta questa roba qua lavora per 100.000 km, quando lavora per 100.000 km si riscalda, si consuma, eccetera, non è come dici tu, tagliando se glielo fa la macchina, tagliando l'olio è l'anima del motore, se tu non li cambi l'olio si incrossa tutto e ce la va. Ma comunque la mia è stata controllata, l'olio a posto, l'ho già regalato un meccanico, mi aveva aggiunto l'olio, adesso dovrò fare il cambio, adesso vediamo un po', appena è libera, perché il lavoro della, perché non funzionava la carta, ma l'ha già fatto un amico, ne ha smontato tutti i tubi, scaricati, era tutto intasato, adesso è a posto, la recata la rifa, mi farò fare il cambio olio, cambio filtro, le pastiglie. La voce vogliono fatti anche nelle macchine normali, io la mia ho messo le pastiglie tutte e quattro, sia quelle davanti che quelle dietro le ho cambiate. È normale che si consumi. Ma quanti chilometri c'ha adesso già? 35.000 chilometri. Assunta. Ah, sto usando, uso un poco per fare la spesa, per andare a fare qualche giro pure. Non è che la uso più di tanto, È nuova, la mia è nuova. Ma bello perché è una macchina, diciamo che va bene. Ma diciamo, sei più fidanzato? No. Bravo, bravo. Ciao Fangiano. Così hanno leggermente di balle. Infatti. Vabbè, una parte già mi piacerebbe, ma all'altra sto bene, dai. Beh, certo. Che catena, ora che patina. Tu cosa hai fatto? Tu cosa hai, una ricca? E io che vado a scuola. Non c'è la bicicletta? Io no. Ce l'hai, non dire balle. Io bevo da solo. Vabbè, ma la bicicletta la virà. Non ce l'ho. No, io da quando mi sono accumulato, vabbè, qualche sorellina la dicevo. Avanti, Franco. Beh, Luca. Diciamo, non è semplice. Quando una storia finisce, inutile stiamo lì. Un casino. Non è facile. Poi, vabbè, c'è da dire anche per chi ha figli, lo stesso. C'è una compagna che ha figli, non è semplice. Ci sono passato più volte io, cazzo. Sembra che abbia la calamita. Niente contro i bambini, attenzione, però. Sembra che abbia la calamita. Tu cercate dei giovani, giovani che non abbiano figli, se c'hai figli purtroppo ti devi prendere tutto il pacco. Lo so, ma non è facile già, è utile, mi dispiace dirlo, ma non è facile. Non è facile, no, specialmente per uno che non sta lavorando, mantenere anche i ragazzi è un casino. Cazzo, non riesco a mantenermi io. Alla carità, se siete matti. Poveri. Chi sa fare in gara, io li ho visti, quelli che ci sono dove c'era lo spazio della pistola lì, tutta la fila a Farremisi, a Bosca, mamma mia, ma carità, che gentaglia che c'è che fa. Franco, tu ma noi ti diventi una stazione come si tocca, ci tocca, almeno ci sentiamo bene, che se ti sentivo così bene con cosa, con il presidente, con quello 80 cani, sembrava bene che non me ne hai vinto tu. Tu non mi hai detto se tu non mi hai detto se quello lì lo stiamo ottenendo sinceramente, poi mi ha sacco le palle Torino e ve l'ha giurato. E i Valbella si trova sempre una parecchia, c'è problema. Io mi c'ho questo, se ti interessa c'ho il coso, che sto vendendo. Luis, stazione base 220 e 12 volte. No, per adesso no, ho già cazzo per il servizio per momento. Sì, ho fatto fare la macchina, tutta quanta, a gestire per il finale. E cosa gli ha fatto? Un bel lavoro ce l'ha fatto. Tutta la carrozzeria ho fatto. Ah, l'ha riverniciato? Allora, ho fatto sicuro di tutto. Ah, e quindi te l'hai fatta a nuovo adesso, dai? Tutto, dalla carrozzeria, il cerchio, tutto qua. Hai fatto bene, se è buona la macchina, hai fatto bene. Tanto se comprare la macchina è un problema. Oh, io non comprerò mai macchina nuova, guarda, l'ho compresa una volta a sole, macchina nuova, quando ero qua a Milano.